questa è l'Italia, dei VIP, dei politici e delle fittestie. Questa è l'Italia, questa è l'Italia, delle bugie. Questa è l'Italia, delle fobie. Questa è l'Italia, dei potenti, prepotenti, contro chi si ribella, ma tu non lo senti. È l'Italia, liberata dagli americani, nel 45 l'Italia, piena di politici, duri come la Sfinge. È l'Italia, della democrazia, della Repubblica, dello Stato, di polizia. L'Italia, dei parchetti, dei pacchetti, nella tua via. L'Italia con diverse classi sociali. L'Italia che si rialza dopo i mondiali e vanno a Porto Cervo a fare i VIP come gli americani, come Clunis e la Canalis. Questa è l'Italia, l'Italia dello stivale, disegnata sulla cartina con un lapis. Gli italiani che fanno a gara con la coca nei nasi. In discoteca ci cazzottiamo per una troia come Sara Tommasi. Mi lascio tutto alle spalle, ND c'ha il beat e c'ha pure le palle. Le palle che non vengono schiacciate dagli stivali, ma le palle che vengono strappate dalle menti criminali. Dagli anni 90 alla nuova scuola, questi sono passi alti, questo è ND, bella, yo. Questa è l'Italia delle bugie, questa è l'Italia delle fobie. Questa è l'Italia dei VIP, dei politici e delle finte spie. Questa è l'Italia delle bugie. Questa è l'Italia delle fobie. Questa è l'Italia dei potenti, prepotenti, contro chi si ribella, ma tu non lo senti. L'Italia corrotta, l'Italia in bancarotta, l'Italia che non lotta, sembra fissa in botta. E sembra che non capisca che questo sistema è il vero problema. Io sistema, vedo il problema, tale che treme, tale che scema. È l'Italia sei destra, ma cosa cazzo ha in testa? E pensa alla festa italiana in TV, mentre tu stai giù, senza lavoro e per di più. L'Italia che non vince più, e il calcio in pay per view. L'Italia del presidente degli che pensa ai cazzi suoi e mai alla gente. L'Italia delle carte, dell'arte, l'Italia delle sarte, del giovane che parte. L'Italia che non c'entra con l'Europa per un cazzo, e i politici modello marrazzo, per questo che ti danno tutto, sì, ma col cazzo. Questa è l'Italia delle bugie, questa è l'Italia delle fobie. Questa è l'Italia dei VIP, dei politici e delle finte spie. Questa è l'Italia delle bugie. Questa è l'Italia delle fobie. Questa è l'Italia dei potenti, prepotenti, contro chi si ribella, ma tu non lo senti.